andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quasi le 18:30. Mi sei mandato i messaggini. No, dico, sono quasi le 18:30. Cosa succede? Alle 18:30? La Zanzara, no! No, la Zanzara, no, ti prego. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Scopata oggi, amica mia. Amore, tanto, perché sono venuti tutti a cercarmi. Amore, ti ho fatto guadagnare, ti faccio guadagnare più soldi. Adesso mi metteranno in galera a me, no a te! Mi mettono in galera giusto a me per favoreggiamento alla prostituzione! Favoreggiamento alla prostituzione! Ma scusa, d'inverno, per esempio. A me piace fare sesso, quindi ma io questo non ci vado capito, con un bruttone che mi fa schifo, cioè che ci vado a fare? Ma non ho capito, tu io fai. Sono lì solo per soldi. Ma se tu vai 10 con 10 uomini al giorno, metti, che succede? No, succede che sei andata con 10 anche, no? O sbaglio? Sì, succede. È possibile che tu adesso tutte e 10, con tutti e 10 questi quattro. Io godo sempre, sì, perché mi piace, perché vado con persone, con uomini che mi portano a questo livello, no? Perché me li scelgo. Susanna, la prostituta a pedali, la prostituta in bicicletta sulla Salaria. Allora, caro Parenzo, per dire poverina, subito. Poverina. Poverina, fa un mestiere che. Mi dispiace, non mi sembra che abbia una voce triste. Nelle due volte in cui è intervenuta qui alla Zanzara, non mi sembra che abbia una voce triste. Però, questa roba dei figli. Comunque, vabbè, dai, avanti. Allora, Berlusconi si è operato. Sì, operazione finita, bene, è riuscita. Pare, no? Sembra. Bene. Ci sono polemiche su web, naturalmente, sulla rete. Sul fatto che la Pascale è uscita fuori in balcone, si è messa a piangere. Vabbè, ma che. Qualcuno dice: beh, che è una gentaglia, cosa chiaramente strumentale. Cioè, insomma, che uno gentaglia piange dentro l'ospedale, non si affaccia alla finestra a uso di telecamera, a uso di fotografi per farsi fotografare. Che dici? Che gentaglia. Gentaglia dai. Chi? Gentaglia chi? Gentaglia quelli del web. Neanche le lacrime della Pascale. Adesso si fa pure il retropensiero. Sull'11 settembre va bene, sono state le FBI. Ragazzi, però, se un personaggio pubblico fa un gesto. Mossad. Se un personaggio pubblico come la Pascale fa un gesto. Dietrologia schifosa, roba da smanettoni della rete, da stupidi che non hanno niente da fare. Scusami, però, Davide, se un personaggio pubblico come ma la Pascale c'entra, fa un gesto pubblico, le persone detto? Le qual perso- è il gesto pubblico? Una signora che è su un balcone di una stanza privata, ci sono fuori i fotografi, fanno il loro mestiere, per carità, ma non è che si è messa in piazza a piangere in piazza del Duomo, era fuori dal balcone della stanza del suo compagno, del suo. Ma le persone giudicano anche queste cose qui, eh? Non è che si è messa in piazza Duomo o davanti a Colonia. Quella è una piccola, uno potrebbe dire, quella è una piccola piazza Duomo. Ma poverina, è uscita nella sua in un momento a tirare un sospiro di un respiro e si è messa a piangere in balcone, non è che si è messa ad usum telecamere a piangere. Sono dei miserabili questi del web, fanno schifo, dai, fanno proprio schifo. ragazzi, io devo dirvi la verità, non sono fissato, perché non sono fissato, ve lo assicuro, è lei che contribuisce preziosamente. Lo posso dire preziosamente? Esiste la parola preziosamente? Sì. Forse sì, forse no, non mi interessa. Noi qui inventiamo anche linguaggi e parole nuove, sbagliamo, siamo sporchi, cattivi, brutti, in qualche caso anche ignoranti, ma non ce ne frega niente. Almeno non me ne frega niente. La cosa fondamentale è una, la signora Boldrini. Beh, amici miei, abbiamo scoperto, grazie alla signora Boldrini, presidente della Camera, terza Camera dello Stato, tu non sai nulla di questa cosa, dunque ti informo, oltre che ovviamente tutti gli ascoltatori, informo anche Parenzo di questa roba qui, che è una cosa abbastanza incredibile. Cioè, grazie alla Boldrini io ho scoperto oggi che esiste un'associazione toponomastica femminile. Sì. Cioè esiste in Italia un'associazione toponomastica femminile, cioè che fa il conto, si occupa delle vie intitolate eccetera eccetera alle donne. Spero che non venga un euro a questa associazione, questo appunto, ma al di là esatto. di questo, secondo la Boldrini bisogna rivedere la toponomastica. Sentiamo, ascoltiamo questo contributo, direi molto molto importante. Rivedere la toponomastica. Sì, rivedere la toponomastica. Cioè bisogna che i sindaci, i candidati sindaci tengano ben presente questo aspetto, dice la Boldrini. Con cioè tutto i problemi per delle le autorità città politiche, civili e militari, mi sembra un tantinello una cazzata, un tantinello. Sentiamo la viva voce della Boldrini. Io penso che sia giunto il tempo di dare alle donne ciò che è delle donne. Per questo mi rivolgo anche ai candidati sindaci e alle candidate sindache, perché appunto tengano a mente la necessità anche di rivedere la toponomastica. E dunque questa è la premessa, cioè i candidati e io dico sempre candidati, non me ne frega un cazzo di tutte queste cose, sindaci, i candidati sindaco, non mi interessa uomini, donne che siano, candidati sindaco, nelle città devono avere ben presente questo aspetto fondamentale, cioè il traffico, le cose, sì, però la toponomastica, cioè a chi sono intitolate le vie. L'Associazione Italiana di Toponomastica Femminile ci dice che solo il 4% delle strade sono dedicate alle donne e queste donne sono quasi sempre sante. Cioè ci informa la Boldrini che solo il 4% delle strade italiane, non so se in alcune città, non so questi dati, eccetera, sono intitolate alle donne. Sono problemi, questi sono problemi. Grande scontro Sallusti Gruber ieri sera su Hitler e dintorni, su Mein Kampf e dintorni. Impedire la conoscenza anche del male assoluto è una forma di nazismo. Però scusami direttore, ma però diciamo tu hai offeso migliaia e migliaia di persone, no? Perché viene ritenuto io un offeso testo. Mein Kampf viene ritenuto offeso un testo, no, Marco da Milano, un po'. Ma infatti non si tratta di impedire. Io ho offeso, scusi, perché io ho offeso? Io ho pubblicato un documento storico. È inutile dirvi da che parte sto, insomma, è inutile sottolineare questa cosa qua. Ma non perché la Gruber o Sallusti, per carità, ma qui si tratta semplicemente di analizzare le parole. Cioè, allora proibite la vendita. È più coerente, uno potrebbe fare una battaglia a favore. È più coerente, proibite la vendita, perché allora anche chi lo vende, come ha venduto il giornale, esattamente allo stesso modo andrebbe condannato. Ma senti questa cosa ancora, qui c'è un errore di Sallusti però, amico mio, Sallusti. Sarebbe come dire che chi compra il Vangelo è un buon cattolico, che chi compra Anna Frank, chi compra i diari di Anna Frank è si vede che con Anna Frank non hai grande dimestichezza. Ma vuoi capire che leggere, che leggere è ancora anno, quindi dopo aver offeso una religione monoteista hai offeso anche le altre due. Perfetto, mi pare che siamo all'en plein. Qui bisogna recitare per forza una parte, no? Cioè qui l'amico da Milano recita una parte, cioè guarda, devi andare contro Sallusti. In realtà io credo che una persona non è che recita una parte. Ma dai, ma ragazzi, ma non è successo una proibitelo, è più coerente, dici lo voglio proibire, non deve circolare. Benissimo. No, ma scusami, ma è quello, è un libro, a parte venduto, uno venduto, punto. Se voglio lo vuoi vedere, comprare lo compri, se non lo vuoi comprare vedere, non lo compri. Ma è un'operazione editoriale di marketing. Ma perché quelli che lo stampano qual è? Si può usare un libro come quello per fare un'operazione editoriale? Tutti i libri, se non sono proibiti, criticati. Se, non, se la legge lo consente, se la legge lo consente. È lecito criticare il fatto tu lo puoi criticare, ma non un'operazione editoriale di marketing. Ma perché gli altri che lo vendono? Ma gli altri chi lo vendono? Tutti. Ma chi lo vende? Chi lo vende? Le librerie. Ma quali editori? A parte che è complicato, perché come sai c'era un'edizione critica. Fermo lì, fermo lì. Dalla Caos. Fermo lì. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Can I play with madness? Allora, ragazzi, sulla strage di gay a... dov'era? Orlando. Orlando. Forse aveva ragione Luxuria, quando ha detto pochi giorni fa che quelli che fanno queste cose potrebbero essere dei gay repressi, ed è spuntato fuori che questo qua faceva delle chat gay, eccetera, eccetera. Io credo che lui fosse un omofobo violento, in quanto omosessuale represso. Forse aveva ragione Luxuria. Escono fuori delle cose incredibili, Parenzo, dal ventre dell'Italia, dall'Italia, dal ventre molle dell'Italia, certo, no? Guarda, quello che veniva fuori anni fa con le telefonate di Radio Radicale. Senti dal un retto, attimo. Dal retto dell'Italia. No, dal retto, come dal retto, vuoi, retto, anche retto, dal retto, retto, anche dal retto. Allora, senti cosa scrive questa qua, che si chiama Nicoletta Ciliento e sembra essere un soprano o sottosoprano, non so come cazzo si chiamano questi qua, comunque una cantante lirica pugliese di Bari, che scrive una trombona. Sì, una trombone in tutti i sensi. Hai 50 gay uccisi per un atto terroristico, tale atto è sicuramente condannabile. Ma io penso anche a quanti bambini si sono salvati da molestie sessuali. Penso anche a quanti bambini sono salvati da molestie sessuali. Cioè, lei dice, grazie alla morte di questi gay si sono salvati i bambini. Stupida. La facciamo una telefonatina o no? Chiama, chiama, tanto queste, figurati. Impunita sta gente. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Sì, stavo cercando la signora Ciliento. Sì? Scusi, come le è venuto in mente di scrivere quella cosa sui gay? Pronto? Ma siamo in un paese libero o siamo in un paese di dittatura? Paese libero? L'Italia che cosa è? No. Non si è liberi di parlare, di esprimere i propri pensieri? Assolutamente sì, è per questo che la chiamo, è per questo che la chiamo, perché io amo la libertà, amo il libero pensiero e chiunque si può esprimere come vuole. Bene. Ecco, per cui quando lei scrive che esistono, che l'attentato a Orlando è condannabile, ma io penso anche a quanti bambini si sono salvati da molestie sessuali, cosa vuol dire esattamente? Io mi riferisco soprattutto come si chiamano, quelli lì che usano i bambini per i pedofili. Cose sessuali. I pedofili. I pedofili, benissimo. Che per me, per i pedofili ci vuole la pena di morte. D'accordo, in Italia però non c'è, e magari venga ripristinata. Per i pedofili, poi uno è gay, è lesbica, può fare quello che vuole della propria vita. L'importante è non toccare i bambini. D'accordo, ma perché questa è la cosa importante. Quello è fondamentale. Ognuno di noi è libera di esprimere la propria sessualità come crede. Ma perché lei vuole, scusi, quello va benissimo, siamo tutti d'accordo contro la pedofilia, eccetera. Perché lei collega i gay uccisi al fatto che i bambini siano salvati? Perché in mezzo a quei gay sicuramente qualche pedofilo ci sarà pure. Non penso in mezzo a 50 siano tutti caschi e puri. Ma lei dice? Mi sembra ovvio questo. No, ma perché lei dice che i gay, molti gay sono pedofili? Moltissimi gay non sono neanche malati, sono solamente di perversi e viziosi, perché io li conosco. Disgraziatamente ho anche ho lavorato con delle persone, soprattutto nei registi gay. Sì, e dunque puntano sui bambini proprio, puntano sui giovani. Ci sono alcuni, non molti, ci sono alcuni che vedi per esempio l'ex sindaco di Bari, Vendola, che è andato a comprarsi un bambino. È una cosa normale questa? Io sono una madre. Però scusi, non era sindaco di Bari, a parte che è Vendola, e poi non era sindaco, era governatore della Puglia. Governatore, non importa, può anche essere il padre eterno. Comunque lui non ha nessun diritto di andare a fittarsi un utero per prendersi un bambino. Ma questo che c'entra questo con io non le ammetto. Ma perché è un pedofilo Vendola, secondo lei? Non lo so che cosa è, però uno che prende un bambino e lo fa crescere in una situazione anomala, anormale, non è, per me è condannabile. No, ma è interessante questa cosa, cioè è interessante il fatto che lei dice 50 gay uccisi, sì, per carità, da condannare, eccetera, eccetera, però meno male che si sono salvati tanti bambini, giusto? Beh certo, se in mezzo a loro ci sono dei pedofili, sicuramente molti bambini si sono salvati. Però le vorrei fare, però le vorrei fare sommessamente osservare, signora Cilento, che i pedofili sono un po' ovunque, non si annidano solamente tra la comunità gay. Ma lei lo ha messo anche se, ma questo non, sono tutti uomini, anche i sacerdoti sono uomini che sono venuti meno ad un giuramento e sono ancora più condannabili. Sì, ma li vogliamo chiamare direttamente froci? Che dice lei? Guarda, a Bari si dice ricchioni. Ricchioni, meglio ricchioni, ecco. Che dice? Meglio ricchioni, sì, no? Sì. Chiamiamolo ricchioni, chiamiamolo come vogliamo. Cioè, l'importante è che non rovinano i bambini. Si potrebbe dire che grazie a questa strage si sono salvati un po' di bambini. Triste dire questo, è veramente molto triste. Però è così, però è così. Purtroppo è da constatare, è la realtà. I gay che sono malati, i gay? Alcuni sono malati, altri sono perversi. So di persone che sono sposate e hanno voluto provare. Che male c'è? Lei pensa di essere normale, ma invece, vero? Che male c'è? Ma che scherzare? Ma la morale esistono? Ma scusi, secondo lei i gay sono contro natura, sono anormali? Che sono? Il gay sicuramente non è contro natura. Il maschio è maschio e la femmina è femmina. Contro natura, no, dunque sono contro natura, dice. Io capisco più il transessuale che si trova in un corpo diverso. Ah, il transessuale va bene, dice, sì, certo. Con l'aiuto della medicina, di quello che è. Ma sono malati, secondo lei? Sono malati i gay? Alcuni gay sono malati, altri sono perversi. Ma si possono curare? Questo è lo che bisogna chiedere a un medico. Io non sono un medico. Se lei avesse un figlio gay, no? Che farebbe? Farei di tutto per curarlo se fosse possibile, se no andrebbe avanti per la sua strada. Però direi a mio figlio: lascia stare i bambini. Lascia stare i bambini. Parenzo, intervieni tu. Le presento il dottor Parenzo. Buonasera, David, signora Parenzo. Buonasera, signora. Lei ha mai pensato di farsi curare per queste cose che ha detto? Senta, sì, vada a quel paese. Prego, signora. Sei sempre il solito, Sei sempre il solito. Ha mai pensato di farsi curare? Sette parole. Sempre il solito, però. Sei intervenuto con sette parole. Forse per te chiuderebbe anche questa trasmissione. Chiuderebbe questa trasmissione con sette parole. Perfetto, non basta. Ma anche senza livore, senza alzare la voce, senza gridare, sette parole sono. Allora, bastate. Ragazzi, c'è il giornale radio, eccetera, eccetera. Benissimo. Vi leggo velocemente questa cosa. Salvo Mandarà, blogger, ex grillino, eccetera. Non dico niente. Scrive, non dire niente. Oggi mi è successa una cosa strana. Ho contattato una ragazza su Messenger proponendomi di fare sesso via cam. Ho sempre rifiutato questo genere di contatti. Oggi ho voluto provare e capire. Stavo per farmi la doccia, così essendo già nell'assetto corretto ho accettato la chiamata. Lei si è mostrata, ho fatto altrettanto. Volevo capire fino a che punto potesse arrivare la disperazione umana. Ovviamente l'interlocutore ha registrato la mia performance sessuale e ora pensa di ricattarmi pubblicando il video e inviandolo a tutti i miei contatti. Io gioco d'anticipo, mai cedere ai ricatti, mai. Ho fatto una stupidaggine ad accettare, sono caduto nella trappola come un fesso, ma meglio di sinnescare subito il ricatto piuttosto che cedere. Pubblica pure quello che vuoi, cara 25enne. La cosa più importante, a parte la figura da fesso che ho fatto senza nessun attenuante, ho il dovere morale di chiedere scuse a tutti voi e soprattutto alla mia famiglia e alla mia compagna. Fa sesso via cam e poi chiede scusa per un esperimento. Il segnale orario vi è offerto da... Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Voi siete degli stronzi, ma il fatto è che siete i migliori tra gli stronzi, è questo che fa la differenza. Ragazzi, arrivano sempre in ritardo. Leggo adesso di ricerche scientifiche che si basano sul risparmio energetico, sul risparmio dell'acqua, eccetera, eccetera. Vuoi salvare il pianeta? Parentesi, a me non fotte nulla di salvare il pianeta. Vuoi salvare il pianeta? devi fare pipì sotto la doccia. È tutta una questione di risparmio di risorse. Adottando questa pratica tutti i giorni, per chi si fa la doccia, ovviamente, Parenzo, no? Si calcola, ci sei io? No, non ho capito. Certo che ci sono, sto ascoltando. Si calcola che si risparmierebbero 2555 litri d'acqua a testa ogni anno. 2555 litri d'acqua a testa ogni anno. Ma tu non lo fai per questo, la fai per sporconeria sotto la doccia, non per risparmiare. No, io la faccio perché mi viene più comodo, no, perché ecco, mi viene più non comodo. Perché vuoi salvare il pianeta. Ma guarda che non c'è nessuna sporcizia nel pisciare sotto la doccia, cioè non è... fa schifo l'idea. Ma che qualcun altro possa poi fare la doccia lì. Ma qualcun altro la pulirai la doccia e poi la pipì pulisce. Capito, ma è una roba schifosa, dai. Ma perché è schifoso? Non ho capito. Negli Stati Uniti perché esistono delle cose che nel Medioevo, per carità, non c'erano. Infatti la gente si affacciava dalle finestre e la faceva dalle finestre. Non c'erano le fognature. Anzi no, i romani sì le avevano. Già, figurati, già i romani avevano. Ma infatti la pipì va nelle fogne. Dopodiché ci sono dei luoghi deputati che si chiamano Vespasiani, dall'epoca di Vespasiano in poi. Bagni, cessi, bagni alla turca, ce ne sono di diversi tipi, peraltro, che uno può utilizzare, bagni a muro, bagni alla turca, ma la doccia, comunque usati apposta per quella funzione là. Se poi uno, in tutta libertà, a casa propria, perché se io scopro che un ospite a casa mia fa la pipì nel lavandino, lo prendo per l'orecchio e lo sbatto fuori di casa. Vabbè, se scopro che un mio ospite a casa fa la pipì o nella doccia o nel bidet, sì, o dove io mi lavo la faccia, lo prendo per un orecchio e lo sbatto nudo fuori di casa. Sai che la prossima volta che vengo a casa tua piscio nel lavandino apposta, non te lo dico? Cambio e no, come fai? Non ti invito. Se devo andare in bagno, non ti invito. A casa mia nessuno fa la pipì nel posto deputato, che è il... Ti giuro, la prossima volta vengo, tanto te lo scorderai. La prossima volta che vengo. E quando ti vedo, non ti do neanche più la mano ormai, perché so cosa fai con le mani. No. Le porcherie che fai, non do più la mano neanche. No, io, ma figurati, la prossima volta che vengo a casa, non te lo dico, faccio un filmato e poi lo pubblico. Ma non sarai questo ricevuto. È il cesto di Parenzo, non bellissimo. Sarai ricevuto, stupendo, a casa. Tutti quelli che andranno a casa di... magari io non ci andrò. Tutti quelli che da questo momento in poi avranno amici, contro amici, andranno a casa di Parenzo, vi prego, pisciate sul lavandino. No, io invento gente educata. Attenzione, pisciate nel lavandino, fate un filmato e mostratelo. Parenzo, abbiamo pisciato nel tuo lavandino. Non succederà. Abbiamo pisciato nel tuo lavandino. Ti assicuro che sono non quasi succederà. Certo che succederà. Quasi non succederà, certo, perché le persone che frequentano casa mia sono brave persone, non snob. Non dire, perché sono in quartiere, in quartieri alti. No, anche nei quartieri bassi fanno la pipì. Anche a Gomorra ma fanno, figurati, la pipì nei gabinetti. Come funziona? La come serie si fa? TV Fargo. La serie TV, bellissima, Fargo. Senti, bellissima, senti, l'ho vista. Però, senti, non hai visto un cazzo. Senti, ho visto la serie. Altrimenti avresti imparato. Senti, ho visto la serie. La mia pisciata più bella l'ho fatta nel lavello della cucina. Non mi stupisce se sei divorziato. Io amo farla all'aperto. È liberatorio, credo. Pisciare dove non dovresti. Quando ero sergente, ho pisciato nel cassetto della scrivania del mio superiore, mentre lui era alle Hawaii. Avevo bevuto 6 caffè e una mia prima. Ecco, quella è stata una bella pisciata. Ma tu hai l'attrezzo adatto. Io per farla mi sarei dovuta arrampicare sulla scrivania. Capito? Ma infatti è un film, però. Allora, negli Stati Uniti il 61% degli intervistati ha ammesso di fare la pipì sotto la doccia e di non trovarci nulla di male. Tirare lo scarico alla toilet costituirebbe il 27% del consumo d'acqua complessivo del paese. Va bene, a me non me ne frega niente di salvare il pianeta, ve lo dico, ve lo confermo. Male, lo lasci ai tuoi figli, ai tuoi figli. Non me ne fotte salvare il pianeta. Ma che è sta cosa, salvare il pianeta? Beh, però usare accortezze, no? Non inquinare troppo, questo è... No, io voglio rileggervi, perché dopo avremo un collegamento più tardi col signor Mandarà. Quello che ha scritto il signor Mandarà su una disavventura che gli è capitata. Oggi mi è successa una cosa strana, scrive Salvo Mandarà, blogger grillino, eccetera, eccetera. Mi ha contattato una ragazza su Messenger proponendomi di fare sesso via cam. Ho sempre rifiutato questo genere di contatti. Oggi ho voluto provare a capire, cioè l'esperimento sociale. Stavo per farmi la doccia. Essendo già nell'assetto corretto, ho accettato la chiamata. Cioè, assetto corretto significa nudo col pisello di fuori, immagino. Lei si è mostrata e io ho fatto altrettanto. Mostrata. Volevo capire fino a che punto potesse arrivare alla disperazione umana. Mi permetto di dire, ma più tardi riuscirò a spiegare a lui che per verificare la disperazione umana non è che c'è bisogno di mettersi con l'uccello nudo davanti alle telecamere. Comunque, Ovviamente l'interlocutore ha registrato la mia performance e ora pensa di ricattarmi pubblicando il video e inviandolo a tutti i miei contatti. Gioco d'anticipo, mai cedere ai ricatti, mai. Ho fatto una stupidaggine ad accettare, sono caduto nella trappola come un fesso, ma meglio disinnescare subito il ricatto piuttosto che cedere. Pubblica pure quello che vuoi, cara 25enne. PS post scriptum. La cosa più importante, a parte la figura da fesso che ho fatto io senza nessun attenuante, ho il dovere morale di chiedere scusa a tutti voi. E tutti voi perché, scusa? Quelli che lo seguono, se ho mandato, se ne sbattono i coglioni, perché? Perché vuole chiedere scusa magari a tutti voi? Perché anche quelli reputano disdicevole masturbarsi, vabbè, al telefono e soprattutto, e soprattutto alla mia famiglia e alla mia compagna. Quello è capibile già di più. Allora, andiamo a Roma, Carlo. Vai, Carlo. Pronto? Dimmi, Carlo, dimmi. Buonasera, a parte il fatto che la pipì è un potente disinfettante e concime. Bravo, quindi, bravo, insomma, bravo. Urea allo stato puro. Mio padre aveva l'orto e praticamente quando si faceva male si metteva un angoletto, e perché è facile farsi male vangando. Perché c'è l'ammoniaca, certo. È ammoniaca, quindi. Sì, sì, no, certo. Dunque non c'è bisogno di pulire nulla. Le feci, ma uno può farle anche in giardino perché sono un ottimo concime. Uno può mettersi anche nel giardino di casa. Fare la pipì nella doccia, uno la fa per comodità, ma non salva il pianeta, anzi lo affossa ancora di più, perché gli scarichi sono divisi: ci sono quelli delle acque chiare, che sono la doccia, il lavandino e il bidet, e quelli delle acque scure, che sono il padre. A parte questo, insomma, io volevo tornare sulla vicenda Berlusconi operazione, che ritengo sia una grande mossa mediatica. Perché spiego il. Ragazzi, però adesso va bene tutto, ma pensare che l'operazione al cuore di Berlusconi sia una mossa mediatica mi sembra francamente una follia. Poi uno può pensare che la Pascale che si affaccia al balcone o alla finestra possa essere una cosa voluta, non lo so. Ma l'operazione non è che uno la decide in base alle elezioni, dai. Ma che stupidaggine, però. Posso spiegarmi? Dimmi, c'è un limite a tutto, però. Allora, io, mio suocero, che è stato 2 anni con lo stesso problema di Berlusconi ed era comunque in continuo pericolo di vita, ogni tanto aveva delle crisi, delle insufficienze. Vabbè, allora tuo suocero, che c'entra tuo suocero con Berlusconi? Comunque, scusa. E comunque, quando aveva queste crisi, si chiamava l'ambulanza, si portava in ospedale, passava la crisi respiratoria. Sì. E ritornava tranquillamente a casa. Dunque? Dopodiché, dopo 2 anni, è stato operato, 93 anni, non... Vabbè, ma che c'entra adesso? Spiegami, che c'entra con Berlusconi? Sono casi diversi, dai! Tutto il cancan fatto, si è sentito male sull'aereo, è stato operato d'urgenza... Ma quale male sull'aereo? Non si è sentito per niente male sull'aereo. Nella settimana dei ballottaggi, e poi trovo disdicevole il dolore in pubblico. Quello dell'affacciarsi al balcone. Ma non si è affacciata per i fotografi, si è affacciata perché magari era l'unico affaccio che c'era in quella stanza. Ma no, in un appartamento di 300 metri, a voglia spazio che trovi per affacciarsi. Ma ti pare che uno mette in discussione anche questo? Primo che ho criticato Berlusconi dal punto di vista politico. La malattia elettorale è una cazzata. La malattia elettorale. Sciacalli proprio. La malattia elettorale è una cazzata, Carlo. Dai, su pensare che Berlusconi si sia operato per. Stupidaggine. Che cazzo fai? Bevi durante il programma? Beh, certo, c'ho sete, che devo fare? Santo da Torino, dai, santo. E quando sono in onda alla sete, che faccio? Bevo quando c'ho sete. Santo, no? Dimmi. Che devo fare? Ah, scusa, arrivo, Madonna. Pronto? Non ho capito. Pronto, Cruciani, scusa. Che stai facendo? No, stavo facendo altro. Sono da ieri sera che sono in. Dai, linea. Dimmi, dai, forza, dai, forza. Intervengo per Orlando, giustamente per quello che è la strage che è successa. Adesso quello lì non sono contrario alla morte, logicamente. Sono contrario alla morte. Che incredibile. Contro le stragi sono contrario. Vabbè, santo, vai al sodo, su, che cosa vuoi dire, dai? Metti ansia ogni volta. Quello che volevo dire è che tante volte Ricchioni, come chiami? No, io non li chiamo Ricchioni, li chiami tu Ricchioni, cioè io non li chiamo Ricchioni. Sono troppo esuberanti, e questo esuberanti, a me esuberanti nel senso che ci sono ragazzi e quando sono in giro magari si baciano, a me molesta tanto, mi dà molto fastidio. E allora che cazzo me ne frega a me se a te ti dà fastidio? Scusa, che ce ne frega a noi se ti dà fastidio un gay che... Ma no, a persone esaltate come questo qua che ha combinato la strage, danno poi questi colpi di testa. Io non è che li voglio. Dunque, secondo te, a parte che questo si è scoperto, che l'ha detto l'ex moglie, eccetera, che molto probabilmente era gay, era omosessuale. E dunque, beh, amici miei, cioè, questo era un omosessuale, il quale probabilmente è represso, eccetera, eccetera, a un certo punto impazzisce, ubriaco, eccetera, eccetera, e fa una strage. Sono le cose insondabili del cervello. Bello umano, in più ci metti l'Islam, eccetera, eccetera. Ma cosa c'entra col fatto? Cioè, secondo te, questo qua ha visto due che si baciavano e gli è presa la follia? Scusa, No, a persone esaltate. Ma l'hai detto genere, tu? L'hai detto sì, tu? Sì, però quello che voglio dirti. Cioè, vabbè, secondo te i gay esibizionisti provocano, possono provocare anche le stragi? A esaltati del genere, sì. Con esaltati del genere. Vatti a fare curare. Francesco da Bari, vai. Buonasera. Dimmi. Niente, volevo intervenire sull'iniziativa del giornale, no? Sì, ma in campo. Esatto. Vai, allora? Premetto che non l'ho comprato, l'ho letto tempo fa. Io non l'ho mai letto, ma in campo, e me ne sbatto i coglioni di leggere Mein Kampf. Ma guarda, garantisco che è un casino, perché tutte le cose cervellotiche che poi non servono. Ma appunto, va letto con degli studiosi, della gente che lo sa. Vabbè, poi no, ma io ecco, stiamo parlando, le volevo dire una cosa però. Sentiamo, io vedo anche Gomorra. Benissimo, non sono mica camorrista. Non sono mica camorrista. E dov'è il paragone, scusi? Vedo e niente, perché se uno compra il giornale si mette a leggere, infatti nessuno accusa, nessuno accusa chi ha comprato il Mein Kampf di essere nazista. Si sta discutendo della scelta di un giornale, esatto. Mica di chi compra Mein Kampf. Francesco, esatto. fermo lì. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Cruciano, non lo posso ammettere davanti alla mia ragazza, ma io piscio sempre nella doccia. Ma che dici? Ho appena pisciato nella doccia mentre ascolto la zanzara. Siamo al top. Ragazzi, comunque devo dire due cose sulle violenze di questi giorni, dei giorni scorsi ai campionati europei di calcio, Parenzo, perché molti parlano di hooligans inglesi e delle violenze degli inglesi ubriachi, eccetera. Da parte eccetera. Dei francesi, una follia, una gestione miserabile. Comunque. Ma no, ma dopo il fatto del Bataclan lì, ma cioè ti pare che tutto è così vulnerabile? Ma uno. Vabbè, ma queste spesso non sono controllabili, questi matti. Però la questione è molto semplice. Ragazzi, gli hooligans inglesi, cioè i tifosi inglesi, sono degli straccioni ubriachi. E che ovviamente vanno condannati quando fanno violenze, sì, ma questo non c'è dubbio, ma non sono il vero pericolo, quelli, ripeto, sono degli straccioni ubriaconi, spesso non organizzati. Il problema, io l'ho detto sin dal primo secondo, perché ho i miei informatori, ho le persone che mi dicono le cose, eccetera eccetera, questa volta il problema sono i russi, tant'è che si è scoperto che esistevano dei gruppi organizzati e militarizzati di russi che hanno attaccato con qualsiasi arma possibile immaginabile i gruppi di inglesi. Il problema questa volta non sono quegli straccioni ubriaconi degli inglesi, sono i russi organizzati in modo militare. Allora, qualche notizia dal mondo dei candidati sindaco. Dall'Europa, dalla Brexit. No, bene, ma che cazzo ce ne fregano i candidati sindaco? Non no. Compri sterline tu, ad esempio? No, non me ne frega niente a me di queste cose. Perché devo comprare sterline? Non ho capito. Beh, perché prima della Brexit, se compri un po' di sterline, la sterlina costa di meno, no? Sì. Perché si viene, allora? Come vedi, svalutata. Se scommetti sul fatto che l'Inghilterra rimarrà e quindi non uscirà dall'Europa, poi il giorno dopo potresti rivenderla e guadagnarci qualcosina, no? Dici? Sì, piccola speculazioncina. Piccola speculazioncina. Un musulmano intervistato per strada. Dove? Da Quinta Colonna, non lo so, un musulmano per strada a Milano. I gay sono come gli handicappati. No, tanto un per dire. Per sì, è un po' bizzarra la cosa. È come dire, se uno va. Ma come dire il microfono della zanzara? Cioè, trovi uno per strada e trovi Mauro da Mantova, anche tra gli arabi. Ci sarà Mauro da Mantova, cioè non è che anche tra i musulmani ci sarà un coglione, cioè Donato da Varese, ma è così. Sì, però cioè... tu vuoi negare che all'interno del mondo musulmano, no, della religione, cioè ho trovato un musulmano per strada, dice vabbè, che a parte dice? Che non l'ho trovato io, c'è un odio profondo nei confronti, c'è un odio profondo da parte dell'Islam nei confronti dei gay, su questo non c'è dubbio. Pena di morte in vari stati, quello sicuro, purtroppo, ho capito, però sono paesi islamici, non è che sono paesi cattolici o sono paesi a maggioranza protestante. Su questo non c'è dubbio. A maggioranza protestante, poi proprio tu, cioè dovresti dirlo proprio tu, in molti paesi, 8-9 non mi ricordo, c'è la pena di morte nei confronti degli omosessuali. Ma non è un dramma, è l'Islam. Non sono teocrazie. Senti, sto musulmano, diverso. Sì, sì, sì, certo. E per qualcuno l'omosessualità è addirittura un problema. Qui sempre uno che è anticappato. Lei si rispetta più, no? Vabbè, quindi gay allora, come l'anticappato. Gay come anticappato, che è una cosa che manca. Allora, a questo punto lui c'è problema, Allah ha dato problema, non ha dato tu, non hai dato io problema. Comunque, dito Dio problema. Ragazzi, quella volta sta roba qua spesso sembra quasi costruita, no? Problema è gay handicappato. Problema gay handicappato. Com'è che fa il musulmano, Parenzo? Non è occidente corrotto. In Islam, l'Islam omosessuale viene tagliato la testa. È semplice, risolto il problema alla radice. Allora, un paio di giorni fa il candidato sindaco a Milano del centro-sinistra, Sala, ha detto che se Roma non vuole le Olimpiadi, pensiamoci noi a Milano. Follie elettorali, vai. Lei, come persona che ha fatto l'Expo, consiglierebbe, sarebbe dalla parte delle Olimpiadi a Roma? Sì, l'ho detto, sì, eventualmente lo dico come battuta, se Roma non le vuole, pensiamoci, perché a Milano abbiamo fatto un Expo straordinario. Vabbè, se è una battuta non la dire però, perché poi chiaramente in campagna elettorale si utilizza tutto, pure sta roba qua. No, ma come dire, siamo in grado di gestire qualunque grande evento. L'Italia non è in grado di gestire una stramazza di nulla. Come no? Diciamoci beh, la nulla, è stato nulla. Gestito oggettivamente bene. Ma che c'entra l'Expo con le Olimpiadi? Sono due cose no, diverse. No, i grandi eventi ho detto, quindi senti anche Daverio. Il Giubileo Rutelli lo gesti benissimo. Senti Daverio, senti Daverio. Filippo Daverio, sentiamo. Filippo Daverio, senti, stupendo. Sentiamo, mi avevano tirato dentro, poi dopo quando ho visto tutta quella sorta di armata della mala morte che gli stava presso, Santanchè, personaggi incredibili, mi sono terrorizzato. Dice che gli volevano proporre di fare l'assessore del centrodestra, dice che ha visto l'armata della morte e se n'è andato, l'armata della morte. Allora, a proposito di Berlusconi, c'era un signore che si chiama Perrilla, un napoletano se non sbaglio, che era piazzato sotto la clinica dove è stato operato Berlusconi, e con un tatuaggio di Mediaset, credo, sulla mano, si era tatuato Mediaset sulla mano, la maglietta del Napoli, eccetera, eccetera. Senti. È stato fatto perché io ci tengo molto per Mediaset, sono fedele a Mediaset. Chiunque lo vede dice, ma come tu sei un fulminato, hai fatto tutto Mediaset, come ci questo rimane a vita? Sì, perché io Silvio ci tengo molto per il Cavaliere e me l'ho tatuato addirittura questo tatuaggio. Cioè questo si è fatto tatuare il simbolo di Mediaset, non credo, sulla mano, su un braccio. La gente non è normale, ma va bene così. Luigi Caltanissetta, vai. Come aperitivo, leggero, anche dopo 15 non ho minuti di caffè. Non ho capito, Luigi, dimmi. Allora, dico, come aperitivo, dopo 15 minuti che aspetto, cavolo, un bel vaffanculone a Parenzo che lo posso dare. Certo che può dare, per simpatia. Certo. Vai, Luigi, dimmi che c'è, allora, che è successo. Allora, sanitari... Certo. Allora, intanto... intanto, non c'è qui intanto, non c'è intanto, bisogna andare al sodo, vai. Pipì sotto la doccia a vita. A vita, tu fai pipì regolarmente sotto la doccia? Beh. Sempre. Sempre. Invito a parenti a casa mia con sanitari un po' moderni. No, grazie. Non vado nelle caverne, grazie. Allora, non sto parlando con te. No, ma non frequento le caverne, le metto, le invito a casa mia. Cosa ho vuoi detto dire? Non frequento le caverne. Vado in bagno così dopo che sono usciti loro, sia zio che zia, e trovo il bidet pieno di pipì. Vabbè, ho capito, ma ragazzi, però cioè, trovi il strani, bidet vedi? Pieno di pipì. Io non sono mai entrato in una casa, ho trovato il bidet pieno di pipì, anche perché la pipì scorre, non è che resta. No, perché c'è il tappo messo, è un tappo che comunque che bella non gente è comune. Ma non ho capito, che allora, non è comune. Non ho capito te. Allora la persona che ha fatto la pipì là dentro non sapeva farla andare via. Cioè, non ho capito, i tuoi parenti sono andati in bagno e ti hanno lasciato il bidet pieno di pipì. Sì. Sì. È uscita, diciamo, va bene, normale. Bello questo bidet, carino, bello il lavandino, dico, ma perché, che c'è? Guardo e trovo una pipì, minchia, dico, mio figlio è stato 3 anni, che bella anni. Gente sì, bella gente, Parenzo, sì, bravi, però bravi, allora fanculo non rimane, sì, è così, ma tu che gli hai detto, scusa, che belle persone che frequentate niente, a casa. Gli ho detto niente, sarà stato mio figlio, imbarazzo totale, panico, E invece come hai scoperto che invece, non sta lì? Ahimè, mio figlio, no, papà, io tu lo sai, io lo facciamo, perché comunque mio figlio c'ha 3 anni e mezzo. È normale, e sì, sono che tre faccia anni di più della bambina. Cioè. Ma come hai scoperto che sono... Mia zia non sapeva che il tappo Era Cristo, bisognava schiacciarlo. La zia. Si schiaccia è un busciato. Ma come hai scoperto che era stato lo zio la zia nella a pisciare là? Perché poi comunque ha confessato. In una grotta è cresciuta anche la Luigi zia. Luigi da Caltanissetta. Comunque. Vai, Emanuele Palermo, vai, restiamo in Sicilia, vai. Luciano. Sì. Dimmi. Ciao, ascoltami. Dimmi, Emanuele. Io dimmi. Sono Emanuele, io voglio dirti una cosa. Dimmi, amore. Queste cazzate dell'APP, queste sono stupidate. Sì, vabbè. Voglio dirti una cosa importante. Sì. Io ho avuto un amico che è morto 6 mesi fa, a 60 anni. Sì. Tramite perché aveva lo stesso discorso del signor Berlusconi. Per carità, non voglio dire. Vabbè, io... hai problemi al cuore, poi? Oh. Voglio dirti che purtroppo era un poveraccio, è morto. Vabbè, adesso non sappiamo le cose, non facciamo queste distinzioni. I poveracci muoiono e Berlusconi si salva, carità, dai. Non voglio, voglio dirti che i soldi hanno un potere. Beh, ma questo non c'è dubbio, cioè chi ha soldi si può curare. Che vuol dire? Chi ha soldi ha più possibilità di... deve morire perché non ha soldi. Va bene, questo non lo sappiamo. Poi? Questo. Poi? Ma poi esiste la sanità pubblica in Italia. Il costo dei gay. I gay, dimmi. Sì. A tempo dei romani che esistono posti di 5.000 anni fa. Vabbè, allora? 10.000 anni allora? Fa. Ora voglio dirti questo. Questo discorso dei gay, adesso giustamente prima... non c'erano questi discorsi perché prima i gay si nascondevano. E allora? Si nascondevano. Adesso invece sono la luce del giorno. E dunque? E non è, ma sì, voglio, per carità, sono gay. Per non carità. È che voglio dirti, non lo so, è una malattia o è quello che cazzo sia, non cazzo mi interessa. Per carità, non metti in dubbio. Sì. Perché io non, per carità, tutti abbiamo però figli. tu dici si dovrebbero nascondere. No, nascondere, per carità. Però per non avere il discorso di fare tutti questi giorno gay, giorno del cazzo, giorno della vita. No, si chiama gay pride, no? Scusami, per carità, per carità. Il giorno del cazzo, il giorno del no, ma c'è il non è il giorno quel, c'è il gay pride, un'altra, non è il giorno del cazzo, è anche il giorno del cazzo volendo, diciamo, no? Però esatto, l'ho detto in siciliano, io sì, va bene, cioè non ti piace l'esibizione a te, non ti piace l'esibizione. Ma no, per carità, non è che è una cosa bella quella che noi stiamo dicendo, quello che dicono, quello che si gira. Ma non ho che cos'è che non ti sta bene? Non ho capito. Non mi sta bene perché se tu sei un gay, fatti i cazzi tuoi, fatti il tuo gay. Non devi essere baciati di fronte alle persone. Ma non lo fa, ma chi lo fa? Perché i bambini guardano, i figli guardano. Ho capito. Emanuele, ti bacio sulla bocca. Lo vuoi un bacio sulla bocca, Emanuele? Come? Lo vuoi un bacio sulla bocca? Ma quale bacio sulla bocca? La minchia io voglio, non la lecca sulla bocca. C'è la figa voglio, non il cazzo. Lo vedi che però c'è stato un lapsus, qua. Un lapsus. Ciao. Oh, ma questo di Mantova, che si è fumato? La zanzara. È con noi Mario Adinolfi, buonasera. Buonasera, mi sentite? Buonasera. Ciao Mario, allora, cosa è successo nei giorni scorsi? È successo che Adinolfi ha espresso, dopo la vicenda di Orlando, Parenzo, dopo la strage di Orlando, sì, sappiamo, solidarietà verso la comunità LGBT, anche se io, per esempio, sono contrario alla solidarietà verso la comunità, perché per me non esiste la comunità, esistono le singole persone uccise, non la comunità. Comunque, ha espresso solidarietà nei confronti della cosiddetta comunità LGBT, cioè della comunità omosessuale, eccetera, sì, eccetera. Non l'avesse mai fatto. Alcuni hanno detto non lo può fare lui, che è una specie di mandante, è stato violento nei confronti dei gay. Insomma, lo hanno definito una specie di mandante morale di quello che è successo. No, nessuno ha scritto mandante morale. Però. Praticamente sì. Mario, diglielo tu, perché sennò... La definizione di Aurelio Mancuso di 2 ore fa è maestro d'odio, per la precisione. Non maestro mandante morale. Che c'entra? Mandante morale è un'altra cosa, le Brigate Rosse. Linguaggio da BR per una cosa fatta a Orlando, appunto, nessuno è così matto da sostenere una stupidaggine. Forse molto peggio dire un leader LGBT come Mancuso dire maestro d'odio, perché evidentemente non è questo il tema. Allora, la cosa fondamentale però è questa. Ora, non si può nemmeno permettere... Mario Adinolfi spesso ha avuto parole, come dire, forti nei confronti, in una battaglia politica, nei confronti delle idee di alcune associazioni omosessuali. È contrario al matrimonio, alle unioni civili, ed è legittimo essere contrari. Cioè, e non sulla è che sua bacheca si sono espressi i peggiori istinti. Questo è un punto però determinante. Questo è il punto che dobbiamo decidere. è legittimo essere contrari al matrimonio omosessuale? Sì, questo o è assolutamente sì. Assimilabile al negazionismo necessitante una legge che ci manda in galera come i negazionisti? No. Questo è il tema vero, eh? No, il tema vero sono gli insulti, non il dire sono contrario al matrimonio gay. Oggi hanno bloccato il mio profilo Facebook per il mio simbolo del popolo della famiglia, hanno attaccato. No, non per quello. Per quello, proprio per quello. Io ho letto che è stato bloccato per la quantità di puttanate che la gente ha scritto fino a... No, è stato bloccato per il mio sito, che se vai a vedere adesso la pagina non c'è il mio simbolo che non può... Vabbè, quello però sono cazzi di Facebook, cioè rivolgiti a Facebook. Però il tema è che io pongo, è legittima la posizione di chi dice io non voglio il matrimonio... Ma certo che è legittima, qui nessuno l'ha messo in discussione. No, però ha ragione su questo Adinolfi, perché chi dice che è contro... Aspetta, chi dice che è contrario al matrimonio. Beh, che questa cosa non è omofobia. Ma non è vero, fatto. Ma non c'entra nulla col reato di omofobia questo. Ma il reato di omofobia è dire frocio di merda, quello è il reato di omofobia, non dire sono contrario al matrimonio gay. Su ragazzi, dai, non scherziamo. Il governo Renzi rifiuta di andare a fare i dibattiti con chi è contrario al matrimonio omosessuale. Ma questo è legittimo. Perché sostiene che è come uno che fosse contrario ai diritti dei neri. D'accordo? Questo è il punto su cui si bisogna discutere. No, ma non però c'è scusami un attimo, scusami. No, vabbè, ma qui siamo tutti d'accordo che non è legittima, no, per non cui... è, no, non siamo. Beh, ho capito, adesso noi siamo qui, che ti devo dire? Al di là di questo, l'omofobia è un'altra cosa. Nulla di che possa definirmi maestro d'oro. Però scusami, una volta tu hai scritto che bisognerebbe prendere i fucili contro la legge Cirinnà. Cioè, questo l'hai scritto. Ho detto contro le leggi che pongono il nonsense, bisognerebbe prendere i fucili. Ho capito. Non si spara a una legge che impone il nonsense. No, però scusami, non è che si prende il fucile. Vabbè, è stata una cosa iperbolica, ma riuscita. No, scusami Mario, però scusami. Allora, io sono sicuro che tu non vuoi la morte dei gay. Sono sicuro che tu non prenderesti mai un fucile per combattere contro la Cirinnà o per combattere però hai scritto che secondo me ci vuole un atteggiamento resistenziale rispetto a una visione antropologica che combatto. Beh, ma resistenziale che significa? Allora non si può arrabbiarsi se non qualcuno dall'altra parte dice che per non far parlare Adinolfi bisogna fare in tutti i modi e bloccare le manifestazioni di Adinolfi, è uguale, no, attenzione, eh? La cosa la che resistenza si fa pure con i fucili, appunto. La cosa che dicono esponenti di governo con una legge è che Adinolfi deve andare in galera. Ma quella è la legge contro l'omofobia. Ma non perché non sei contro la legge, per gli insulti. Ma è una legge. Ma che stupido. Però scusami, lasciamo perdere per un attimo. Mario, scusa, lasciamo perdere per un attimo questa ma roba. Ma non è vero. Questo non quando è vero. Tu scrivi bisognerebbe prendere i fucili, allora o mi dici ho scritto una cazzata, oppure se effettivamente scrivi bisogna prendere i fucili, amico mio, hai scritto una cosa violenta. Hai scritto una cosa che puoi istigare qualcuno. Secondo te io posso teorizzare di andare a prendere i fucili. Ma allora perché l'hai scritto? Come ne dici 552 in ogni trasmissione. Ho capito, ma io ho capito, quindi ma che non è che questa è una discussione che possiamo cioè fare. Come Goebbels che diceva prendiamo i fucili e spariamo alla Cirinnà. Ho detto rispetto a delle leggi che distruggono il nonsense bisognerebbe prendere i fucili, quindi con una minaccia nulla. Non le minacce. Ho capito, però bisognerebbe prendere i fucili. Bisognerebbe prendere i fucili. La gente lo potrebbe capire. Bisogna armarsi contro questi che vogliono la parità tra il matrimonio eterosessuale. Se vogliamo discutere su questa cosa, qua ho scritto una cazzata. Così la semplifico, d'accordo? Ok, diciamo che quella frase è sbagliata, così la togliamo. Beh, se l'hai detto che hai sbagliato, passiamo allo step successivo. Però che è questo: a guardare 1500 messaggi al giorno che scrivono a me, alla mia figlia, di minacce di morte vere, no, bisognerebbe prendere i fucili contro la legge non senza, ma devi morire, porco di merda, così, così. Ma allora, ci sono minacce vere o sono cose scritte su web? Minacce vere? Vabbè, no, roba su web, che io infatti considero il nulla, considero il niente. Però tutti i giorni ti arrivano quante minacce? Quante minacce ti arrivano ogni giorno? Mi arrivano 1500 messaggi di insulti e all'interno, guarda, neanche le controllo, ma ci sono cose davvero pesantissime. Chi vede un pochino il mio profilo, ci sono cose pesantissime anche delle persone che ti seguono su web contro gli omosessuali che devono morire, che devono bruciare, eccetera eccetera. È uguale, identico, fermo lì. Più cruciani e meno vegani. La zanzara. Cruciani, Parenzo Marameo. Drinking beer, nothing more than the occasional tear, but this man's life goes on, he gets squeezed. ragazzi, però la cosa più incredibile che leggo sulla vicenda di Orlando, la strage nel locale gay, eccetera, viene dal, da Monica Cirinnà, che è quella che ha fatto la legge in Italia sulle unioni civili, no? Sì, no. Che ha scritto una cosa, credo sul suo blog o sul suo sito, che ha questo titolo: il silenzio, per sfruttare elettoralmente questa vicenda che non ha nessun collegamento con cose italiane. La Cirinnà scrive: il silenzio dei candidati 5 Stelle. Ora ditemi voi cosa cazzo c'entra. Hanno fatto benissimo a stare zitti invece. I candidati 5 Stelle nelle varie città dove sono candidati, in particolare credo si riferisca a Roma e Torino, hanno fatto benissimo a stare zitti. Invece di dire le cazzate che ha detto Scalfarotto sul fatto che in Italia bisogna fare presto la legge contro l'omofobia. Beh, questo sicuramente. Ma non, a parte che bisogna discutere, io sono contrario. Ma al di là di... Sicuramente. Ah, ma che, qual è il legame? Scusami. Sicuramente. Ma qual è il legame? Come esiste ma una legge era gay. Contro l'odio razziale? Era gay quello. Esattamente. Era ma gay, che quello gay là. Ma non c'entra niente. Quello era, che gay, era gay quello che ha ucciso ma quelli non là. Non c'entra nulla. Ma come non c'entra, c'entra nulla? Nulla? Era gay. Molto probabilmente. Con l'aggravante dell'odio del confronto. Era gay, non c'entra cosa niente. C'entra? Allora, scusa, tu mi devi logicamente spiegare il legame che c'è tra l'approvazione di una... A prescindere dal, ma fa... quello dal l'ha fatto, fatto che il quello legame... io non lo so se quello era gay o non era no, gay. Ma scusami. So che sicuramente sì. Il reato, introdurre il reato di omofobia. Sì. Una cosa esiste no, quando che... c'è un nome. Ma dimmi che legame no. C'è con la strage di Orlando. Se spiegami, lascia perdere quella... Adesso del dettaglio, io non lo no, so ma se quello lì allora ha detto omosessuale. Una cazzata. No, ma lascia perdere, qual è il legame tra la mi legge risulta... sulla... No, tra ma dimmi qual è. La legge sull'omofobia e la strage di Orlando. Non spiegamelo. La strage di Orlando è stata fatta in un locale gay. E allora? Lo stesso attentatore maledetto ha detto che era rimasto, sarebbe rimasto irritato da questo bacio omosessuale. A parte che l'ha detto il padre. Dice il padre. D'accordo, infatti ha colpito. Ma però cosa un c'entra punto... la legge sull'omofobia? Spiegami. Beh, in Italia c'entra perfettamente no, la legge ma cosa c'è il legame tra le due cose? Spiegamelo. Non lo sai trovare nemmeno te. Ma perché è una no? Follia. Vabbè, evitare. D'accordo. Per fortuna stragi così in Italia non ce ne sono state. Ah, evitare, sono state perché la legge contro l'omofobia evita la strage. Evita la strage. No, ma sì, allora, è come dire il reato di femminicidio diminuisce. Non lo sai i reati. Spiegare, non lo sai no. Spiegare, dai. Non lo sai spiegare ma il legame che c'è. La differenza tra l'assassinio con dolo e colpa esiste o no? È fondamentalmente inspiegabile. Ma non è inspiegabile per niente, anzi. È una sciacallata, si chiama sciacallata. Prendi dei morti e ci fai polemica politica in Italia. Prendi dei morti di Orlando, Florida, dove esistono delle normative tra l'altro durissime sull'omofobia, appunto. C'è il matrimonio egualitario, eccetera, eccetera. Appunto, prendi appunto. Quei morti, esistono normative durissime, meno male. Perché quella dichiarazione è stata la prima dichiarazione del governo italiano e ci fai dai. Una sciacallata sopra sul cortile politico italiano. E la Cirinnà ne fa un'altra dicendo questa cosa sui 5 Stelle. Ora, come si fa a non comprendere? Non è stata detta una stupidaggine, è stata fatta una sciacallata sul cadavere. Ma nessuna sciacallata. È una cosa francamente beh, insomma, intollerabile. Sì. In questo caso sì, anche di Nolfi ne ha fatte magari, dire però è così. Che c'è bisogno del reato di omofobia. Ma non c'entra pare, niente, tu lo puoi normale. In alcun modo collegato. Dovrebbe essere una cosa, scusa, una cosa talmente normale. Dove c'è la legge sull'omofobia più stringente che puoi chiedere, dove c'è il matrimonio scusami, egualitario, cosa... tutto quello che vuoi. Cioè in Florida, io ho controllato oggi, in Florida, c'è tutto. Matrimonio tra persone dello stesso, certo, adozione, adozione dei figli paterni. Meno male, infatti è civile adozione, adozione da singolo. Allora che significa? Allora bisogna fare la legge sull'omofobia in Italia. Ma ti rendi conto, David, lo dico veramente seriamente, per fare un ragionamento con un minimo di onestà intellettuale, come può un membro del governo autorevole, un viceministro, fare dai, una prima su. Dichiarazione dell'esecutivo serve senza sapere un cazzo, senza sapere un cazzo, senza sapere un cazzo, sapendo che ha preso di mira un locale omosessuale, questo è il punto. Niente, David, non c'è, io non dai, riesco si può ammettere ogni tanto no? La Cirinnà quando dice che la Cirinnà quando dice che c'è silenzio da parte dei candidati 5 Stelle, vabbè, questo è, questo non c'entra, dice una cosa vergognosa perché non c'entra nulla. I candidati 5 Stelle giustamente, secondo me, giustamente o forse inconsapevolmente, non si esprimono su quello che succede a Orlando, Florida, che abbiamo scoperto poi essere semplicemente un matto che aveva dei problemi essendo evidentemente nella sua omosessualità, che si è voluto vendicare. Chissà che cosa è successo, non lo sapremo mai probabilmente. Cosa c'entra l'omofobia, le leggi in Italia, i 5 Stelle? Non c'entra nulla. Zero, dunque è sfruttare politicamente una situazione. Questo è l'unica cosa che si può dire. L'unica cosa che si può dire è questa. Dunque dire una marea di cazzate, perché ripeto, in Florida non è che è uno stato omofobo. Esistono non leggi. Nulla, è il contrario esatto di chiunque sia stato negli Stati Uniti e in Florida in particolare, che è lo stato di Miami, per capirci, insomma, no? È uno dei luoghi dove... Senti, ma tu hai pregato, hai pregato per i morti? La notte stessa, sì. Io ho fatto due tweet, uno di solidarietà. No, ma hai pregato sul serio, hai detto delle preghiere. Sì, ho detto le però hai anche detto che faresti chiudere i locali gay durante la campagna elettorale. No, non ho detto questo. Beh, ho detto no? Che in alcuni locali, in alcune associazioni sono esplicitamente non i locali gay. Non ho mai usata questa espressione, non le uso. Locali dove si frequenta, dove si radunano i gay, l'hai detto. Nei luoghi dove scorrono fiumi di droga, ci sono rapporti sessuali promiscui tra sconosciuti. Non li considero, se fossi sindaco di Roma, li considererei un luogo dove andare a intervenire per l'ordine pubblico. No, ma tu però ti riferivi ai locali in particolare dove si frequentati dai gay, adesso non ci pigliamo molto per il culo, dai. Spesso sono frequentati da gay, ma non solo, cioè esistono anche locali del genere frequentati da coppie. Non è la prima volta che dici, per esempio, che consideri... Era legato alla vicenda dell'omicidio Varani, dove dentro... Beh, ho capito, però... Comunque, per fortuna, problema risolto, 0-6, quindi problema risolto. Continueranno ad esserci locali gay... Perché siamo all'1% e ci chiamano tutti i dati... La gente continuerà, per fortuna, a baciarsi per strada, nessuno romperà i coglioni e siamo belli tranquilli. Su problema risolto, problema risolto. Scusa, non c'era tutta sta citazione. Niente è successo. Tu dici, sei dell'idea che se non si fossero baciati quei gay non sarebbe successa la strage, non ho capito. L'esibizionismo gay. A me? Lo stai chiedendo? Sì, lo sto chiedendo a te. Non credo proprio che c'entri nulla il bacio tra nessuno per la strage. Insomma, io credo che quella strage abbia delle storie da raccontare molto complesse che non abbiamo ancora individuato molto bene, secondo me. Però tu, un attentatore che prende fra due viaggi in Arabia Saudita, dei contatti così stretti con alcuni ambienti, ha sicuramente le condizioni psichiche particolari e ha a disposizione quel tipo di armi e fa quel tipo di azione, non credo in condizione di non pienezza di sé, diciamo così, quella non è un'azione che tu puoi fare, la fa un'azione da soldato, secondo me appartiene a un percorso che non è quello semplicemente del matto che spara l'impatto. Scusami, ma tu però più volte hai detto che l'omosessualità è un peccato. No, se non lo dico io, io sono un piccolissimo fedele da ultimo banco della Chiesa Cattolica, certamente. Però dire che è un peccato, e poi sai benissimo, per esempio nell'Islam c'è la pena di morte, eccetera, eccetera. Nel cristianesimo no. Beh, no, la pena di morte no, però... No. Però è un peccato. È un peccato. Tanti. Vabbè, questo è normale che lo dica, va bene, chi se ne frega. E la omosessualità è un peccato. Vabbè, questo è oggettivamente così, per chi crede è così, oggettivamente. Non fa male a nessuno dire che è un peccato. Vabbè, ciao Mario, ciao. Allora ragazzi, andiamo in provincia di Verona. Pier, vai, Pier. Pronto? Ciao. Dimmi. Ciao. Senti, intanto premetto che... piacete un sacco, siete fortissimi. Vai. Due cose. La prima è, Cruciani, perché lasci dire a Parenzo quelle stronzate sulla doccia e la pipì sotto la doccia, che sono convinto che anche... Ma se uno però, scusami, povero... anche qui ci vuole libertà come tutte le cose, no? Se non gli va di fare la pipì sotto la doccia, ma saranno pure cazzi suoi, no? Ma no, no? Ma lui la fa! Ma non è vero che la fa adesso! Assolutamente. Ma la fa! Lui tiene questa posizione perché vuole fare il suo show. No, ma non ci credo. Ma perché dovrebbe, scusami, non abbia mai fatto la pipì sotto la doccia? È impossibile. Ma no, ma questo non è vero, dai. Cioè, questo ma no. dai. Ma no, ma se lo dice, probabilmente. Senta, amico mio. Io posso avere. Mi sarà capitato in montagna, le assicuro. Quando andavo a fare le camminate in montagna, più di qualche volta mi sarà capitato magari di addentrarmi nel bosco e di fare la pipì. Appunto, questo sto dicendo, in mezzo al bosco. Ma che ti sei trovato a fare la doccia, che sei stato lì un attimo. Non ci credo che in tutta la tua vita non ti è successo di fare la pipì. Ma può essere capitato una volta, ma non è che lo faccio di automaticamente. C'è un luogo deputato che si chiama gabinetto in Occidente a casa mia. Poi per carità, lei può farlo anche nel salotto di casa, anche sul tappeto può farla, per quanto mi riguarda. Se lei vive così, vabbè, anche sul divano la può fare. Ma io non ho problemi a casa sua. Che succede? Può uno dire... Sì, è vero, è successo. E non c'è nulla di male. Ma infatti, le ho detto, mi è capitato di fare la pipì nei boschi, magari quando andavamo in montagna a fare una gita. Anche nel bagno, dai. Nel bagno di casa sua mi è successo, nel bagno di casa sua. Sì, l'ho fatto in quello dove lei mette lo spazzolino da denti. Lì l'ho fatto, guardi. Anna Piacenza, anzi, sopra lo spazzolino. No, no, dentro proprio il bicchiere. Dimmi, ho visto. È cresciuto nel calma che non sentiamo bene. Poi ha bevuto sempre la candeggina, questo candido per siamo calmi, signora. Che cosa vuole dire? Io volevo dire se è ancora di moda parlare dei capincoli o dei metincoli. Non ho capito, scusami. Ho vinto una cena Perché ho detto subito che quel signore lì che ha ammazzato tutte le persone è talmente gay, represso, che oggi chi si può sposare, chi si può baciare apertamente, senza vergogna. E poi, tra l'altro, dicevo alla signorina che gentilmente ha preso la telefonata, io ho avuto un negozio per 20 anni. No, però io, signora Anna, no, non capisco niente. Lei ha avuto un negozio, parli più piano, non con questa voce stridula che non si sente nulla, questa voce... Scusi, ho 81 anni, Ecco, si sente meglio adesso. Lei ha 81 anni, dunque? Allora, per 20 anni ho avuto la confidenza di tante sarte, impiegate, anche gente molto... E allora? Che di notte dicevano che il marito... da anni sono riusciti a farvi fare un figlio o due e poi giravano sempre dall'altra parte, e ce n'era una che si era fatto operare 2 volte perché ci aveva l'anno sconquartato. No, ma poi scusi, però non capisco. Signora, stia calma un attimo. Sì, stia calma un attimo, perché sennò non si capisce. Andiamo per ordine. Lei ha lavorato 20 anni in una sartoria, giusto? No, merceria. In una merceria. E che cosa le hanno raccontato di così interessante per comunicarcelo alle 20:11 di questa serata, serata importante qui a Radio 24? Sì, siccome dopo un po' di tempo entravano in confidenza, aveva capito che sì, io... le sue clienti. Le cose mi entravano di qua, uscivano di là, non è una bella cosa. Cosa le hanno raccontato? Sì, vedevo tante donne che avevano una voglia matta di confidarsi e eccetera eccetera. Ho capito. Stavano che cosa le hanno confidato? Che il marito, sì, dopo aver fatto fare un figlio o due, sì, preferivano girarle perché erano dei meticoli. No, preferivano girarle, fino a qua ci sono, perché erano dei meticoli. Dei mettinculi, cioè preferivano metterlo nel culo alle mogli, questo è esatto. No, ma siamo chiari con le cose. Va bene, allora c'era una che ha avuto la fortuna, pensava lei, di avere un marito molto abbondante, col sesso veramente, che anche lui preferiva di dietro. E allora? E quella signora lì si è fatta operare 2 volte. Vabbè, ma dunque? Dunque, quelli che odiano i gay, sì, sono i gay repressi, sì, che vorrebbero... io per esempio, mio papà era un tombeur de femme, no? Sì. E ha fatto fare 11 figli a mia mamma e poi... Anche lui a un certo punto preferiva allora, di dietro. No. Quando gli ho chiesto, perché nel negozio che avevamo allora la trattoria, ho detto: papà, ma te quei signorini non ti danno fastidio? Ma perché? In fondo profumano di donna. Ma guai ai miei fratelli, guai a voi se so che fate del male a quelle creature che se sono lì perché non si muove foglia che Dio non voglia, eccetera eccetera. No, però la cosa più bella è la sua definizione, i mettinculi, giusto? I mettinculi. Sì, e poi ci sono... Però sì, poi ho saputo da un mio cugino che aveva un bar a Bologna, sì, che sì, quando andava a Bologna diventava capinculo. Com'è che diventava? Capinculo. Capinculo? Cioè? Che lo prendeva dietro. Ah, capinculo, sì, capinculo. No, sì, con la C di ciabatta. Capinculo. Ciappare, lo c'è il verbo ciappare. Ho capito. Capinculo. Ciapinculo. La nonnina, capito? Con la moglie. Fermala. Ciao ragazzi, io sono etero, ma sono frocio della zanzara. La zanzara. Non ascoltare la zanzara è peccato. Allora ragazzi, ci sono delle persone che si sono incazzate per una cosa pubblicata sul web su Berlusconi, come se fosse un annuncio mortuario, no? Si è addormentato nell'abbraccio del signore Silvio Berlusconi, gli amici, parenti e conoscenti tutti ne piangono la triste scomparsa con immenso dolore. La perdita subita è motivo di tristezza per tutti noi siateci vicini. Vabbè, con la, sai, quando vengono pubblicati gli annunci funerari, sì, no? Stupidaggine. Ma ragazzi, ma su web c'è di tutto, non c'è bisogno di incazzarsi. Ma appunto, io ho sempre detto che, ma come ci bisogna di incazzarsi? Ma che ti incazzi, dai, su, ma fa sono schifo. Ma che ma fa schifo, non si ma può dire. Ma è la normalità, ma la libertà, ma non è dai. La libertà è schifosa alle volte. Sì, la libertà quando diventa insulto, oh, fa schifo. Beh, sì, francamente sì, però sarò strano io, Salvo Mandarà, buonasera. Ciao Giuseppe, come stai? Bene, non c'è male. Allora, ma che ti è capitato, amico mio? Che ti è capitato? Dimmi, raccontami tutto. Che ti è capitato? Ha fatto che le sue porcherie, basta. Dai, cosa dimmi che ti è capitato, dai, forza. Vedi com'è frustrato Parenzo, che già le chiama porcherie. No, io non, tutta, io non chatto con delle... Una porcheria, Parenzo. No, quello no, ma non mi metto a chattare con le donnine in internet e poi mi vergogno di ma quello che questo, ho fatto. Anche questo è legittimo, che... eh? Anche questo no, è... sì, no, certo. Io non mi vergogno affatto. Tanto è vero che se mi fossi vergognato... non avrei disinnescato il tentativo di ricatto pubblicando un post pubblico, quindi come vedi non però andiamo per ordine, scusa, andiamo per ordine, scusa, mi salvo, sì, che è successo, come ti è venuto in mente? Innanzitutto, per carità, io qualche volta l'ho fatto pure, chi è che non ha fatto sesso via web? Parenzo, io? Tu l'hai fatto o no? Mai. Tu non hai mai fatto sesso via mai. No, Parenzo no. Mamma mia, però, web, amici miei, mai, ma se però non hai fatto sesso via web, almeno una volta in vita via tua. Web no, mai. Ma una volta in vita tua ti sarà no capitato una volta? Ti no, giuro, non ti è capitato, ti assicuro di no, mai. Parenzo, allora, no, caro ma Giuseppe, per carità, non condanno questo chi lo fa. Dimmi. Allora, visto che mi hai chiesto cosa è successo, te lo racconto. Ma che sei, con l'auricolare per caso? No, non sono. Telefono normale, sì. Telefono c'è web? No, sì. Stai chattando su web con qualche donnina? No. Allora, vabbè. No, adesso sto chattando solo con te, mi basti tu, Parenzo. vai, il gusto dell'orrido c'hai anche, prego. Allora, è successo questo. Io, sì, come tu sai, mi trovo in Sicilia, sì, perché ieri ho fatto la 57esima tappa del mio Pecoglioni Italia Tour. Uno potrebbe dire il coglione, in questo caso sei tu. Molto, in potrebbe, caso, dovrebbe dirlo. Sono io, perché ovviamente... nella pausa del tour ti è venuto voglia, ti sei collegato, hai fatto i tuoi comodi, ti hanno scoperto e hai fatto tutta sta roba qua. No. Questa è la tesi di Parenzo. Questa è la tesi di Parenzo. No, ma non so neanche. Dimmi. Allora, io avendo una certa visibilità in rete, ricevo 5, 6, 7 richieste di amicizia da profili femminili tutti i santi giorni. Normalmente quando il profilo fake lo vedi subito perché ha tre amici, una foto e quindi rifiuti l'amicizia. Questo profilo invece di questa signorina che si chiama, ovviamente è mai fake anche questo, mica è vero, comunque questa signora Sara di Bari che fa la parrucchiera di 25 anni, aveva 200 e rotti amici, fra cui anche alcuni amici in comune, magari ce l'hai pure tu come amico, chi lo sa? Boh, può essere. E quindi ho detto, mi era sembrato un profilo vero, allora accetto l'amicizia. Allora mi scrive, ciao come stai? Io mi ero appena alzato, perché oggi non avendo tappe ero bello comodo, mi ero appena alzato, stavo andando in bagno a fare la doccia, e questo qua mi fa, ciao come stai? Sono una parrucchiera di 25 anni. Io dico, ciao, sono un web reporter di 49 anni. Sì, web reporter. E dico, guarda, sono divorziato, ho una compagna e due figli. Sì. Vuoi fare sesso in chat? Lei ti ha detto, sì. Lei. E ti ha detto, ma scusa un attimo, ma... guarda che è molto meglio farlo dal vivo, cioè non è che mi interessi più di tanto questa cosa. Mi fa, allora che vuoi farlo o non vuoi farlo? Fra l'altro ti dico, da come erano temporizzati i messaggi, sono tutti messaggi che vanno in automatico, non c'è nessuno dietro quel profilo, secondo me. Vabbè, okay? Allora? Allora io, visto che ero... Ma lei si vedeva o no? Lei si vedeva o no, fisicamente? Si vedeva, una bella ragazza, ma era un video registrato, non c'era mica nessuno dall'altra ma parte. Come fai? Allora te ne saresti accorto se era un video registrato, Salvo, no, scusami. No, come fai? Io potrei Nella tempistica, domanda e risposta, uno si accorge se quello è registrato o no. No, quelle domande e risposte che ti ho riferito erano per iscritto. Vabbè, allora? Nella video chat era solo video, non c'era audio. Quindi vedevo questa ragazza che mi sorrideva, poi si è tolta la maglietta, anche... E tu ti sei tolto la soddisfazione. Voglio vedere questa fin dove arriva. Siccome io è da 14 giorni che sono da solo, perché la mia compagna è a Milano e io sono in Sicilia, eccetera. E proprio ieri, ieri sera avevo addirittura un discreto fastidio ai testicoli, perché appunto, ma diciamo, sai, rischio polluzione notturna stanotte. Ma che schifo, ma chi se ne frega? tutto un po' e chi se ne frega. Ma fa schifo sto uomo. No, però è giusto che lui racconta. Scusa, sta spiegando una cosa. Tu hai avuto un leggero fastidio ai testicoli. Sì, sì, per eccesso di produzione. Cioè alla testa praticamente. Cioè avevi mal di testa sostanzialmente. No, non ho capito. Scusa. Cioè avevi mal di testa sostanzialmente. Fastidio ai testicoli vuol dire per te avere mal di testa. Avevi mal di testa, va bene, avevi mal di testa. Salvo, non ho capito bene, scusa, avevi dolore ai testicoli, cosa c'entra questa cosa qua? Dolore. Ma perché, ma scusami, a te non è mai capitato qualche volta di non fare sesso magari per 10 giorni o 14 giorni? No, beh, lui no. Raro, comunque, raro. Vabbè, comunque. Raro. Vabbè, anche per me è raro, però sono in tour. Beh, no, per te, amico mio, tour, è una notizia quando accade. La prima volta, comunque. Il 2 giugno, e quindi sono passati... E dunque? E dunque avevi eccesso di produzione, che vuol dire? Avevi polluzione notturna? Sei venuto di notte da solo, che hai fatto? No, se avessi avuto la polluzione stamattina non sarebbe successo quello che è successo. Ah, cioè comunque avevi voglia, questa è la sostanza, avevi voglia. Ma più che voglia avevo un'esigenza proprio fisiologica, ecco, più che voglia. Vabbè, comunque avevi un'esigenza fisiologica. Voglia con un telefonino in mano, veramente, proprio un po' da sfigati. Ecco. Vabbè, comunque succede, avevi voglia, e dunque che hai fatto? A un certo punto dici, facciamo sesso con questa qua. Voglio proprio vedere se questa qui veramente esiste, eccetera. Quindi vedevo questo video, poi ho realizzato che sicuramente è una cosa finta registrata. Lì per lì sembrava veramente una ragazza che si volesse mostrare, infatti poi si è mostrata in tutte le sue grazie, e a quel punto ho fatto altrettanto. Basta, finito. Dopodiché, cioè, ti sei masturbato o no? Ma io mi sono mostrato, poi il fatto che io mi sia masturbato sono affari miei. Beh, è evidente che se non lo dici, sì, cioè lo hai fatto, eccetera. Hai finito tutta. Ma perché dovrei vergognarmi di questo? Assolutamente no. Ma chi dice questo? Ognuno può fare quello che vuole. Insomma, ti sei masturbato, benissimo, sei venuto, poi. Ok. A quel punto questa mi manda alcuni... Mi fa schifo solo la scena, vederlo in faccia. Stai zitto, Parenzo. Mi fa proprio schifo l'idea di questo qui, proprio. Andate a vedere, ascoltatori, chi è, e capite perché mi fa schifo l'immagine. Ma no, vederlo lì, ma che, non ho capito, come hai capito che questa qua era... A parte che bisogna vedere, magari era vera. Ma quale vera? Perché te lo spiego subito perché, se mi lasci parlare 20 secondi. Dimmi, dai. Bene, perché se stiamo io e te in video chat e parliamo così come amici, no? Sì. Tu non hai la tecnologia per rimandarmi istantaneamente la registrazione del mio video al posto della tua faccia, capisci? Sì. Allora, diciamo la verità, tu non volevi fare una ricerca sociologica per vedere fino a che punto potesse arrivare la disperazione umana, come hai scritto. Non è che hai voluto provare per capire. Ah, c'avevi voglia de sesso, punto. Ma scusami, Giuseppe, perdonami. Ma perché secondo te masturbarsi al telefono con un computer dall'altra parte e fare sesso? No, cioè, vabbè, ma hai voglia di fare sesso, di consumare, di venire, che ne so, di fare qualcosa. L'hai detto tu stesso, scusami, cioè. Vabbè, comunque, al di là della voglia, ti ho detto che era un bisogno. Ma chi è che ti ha ricattato? Comunque, poi? Dai, chi è che ti ha ricattato? A tua moglie, non a noi. Sì, dopo mi ha mandato il video e mi ha snocciolato uno per uno tutti i miei parenti, mio padre, mia madre, mia sorella, i miei figli, la mia compagna, eccetera. Dicendo, adesso mando questo video a loro, poi lo metto su YouTube, lo pubblico, ti rovino se non fai quello che ti dico. E che ti ha chiesto? Non ho capito. Ti pentirai di essere nato. Che ti ha chiesto? Ma io non le ho dato il tempo di chiedermi, perché io ho pubblicato subito il post su Facebook, l'ho bloccata, e a quel punto poi lei continuava a chiamarmi e continuava a scrivere, guarda che se non accetti quello che io ti chiedo, ma non mi ha mai detto cosa chiedeva. Immagino. Sì, ma tu, io non credo che sia tutto in automatico questo, cioè non può essere tutto in automatico. C'è una persona che risponde, fa, cioè non è una domanda. Comunque, al di là di questo, ma non è che non può essere un complotto contro di te, no? Quale complotto? Ah, no, sì, può essere, perché però. Mi fanno queste cose a migliaia di persone ogni giorno. Che ne so, il Bilderberg. È un agente della CIA, quella lì. Ascoltami, oggi ho fatto una cazzata, ma non sono così cretino. Alcuni l'hanno scritto, Salvo, ma questi, ma quale? Queste cose succedono 10.000 volte al giorno, ok? Sì, amico, però se tu ti metti a mutande di fuori senza conoscere qualcuno, al volo così, col pisello di fuori, è chiaro che... Era capricciante. No, ma è normale, perché è tutto normale. No, ma è normale fare sesso via web con persone che uno conosce. Con una persona così, è la prima volta che uno vede, che spunta all'improvviso così, che ti dice tira fuori l'uccello, amico mio, io non lo farei. Anch'io non lo farei. Per me non è normale fare sesso via web, neanche con qualcuno che conosci, perché via web, cioè... Vabbè, ma succede quello, può succedere, la distanza. A voi succede. La distanza, le cose, dai, su, cioè... Comunque, la cosa che ti dico, Giuseppe, è questa. Dimmi. Allora, stranamente, che è successo? Oggi, sì, ho ricevuto una telefonata da un signore che si chiama Giuseppe Cruciani, sì, ok? Una telefonata da un altro, non ti dico il nome, comunque, del Fatto Quotidiano, ok? guarda caso, cioè io che vi bombardo di messaggi, ragazzi, parliamo del mio Pecoglioni Italia Tour? No, è fondamentale. Fondamentale, km no, di però è quello è abbastanza chiaro il motivo, perché queste cose qui sono molto più succulente, sono molto più pruriginose. Ma non stiamo messi male, sei tu che sei messo male in questo caso. Vabbè, Salvo, ciao, ti saluto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want action? Ah, Grucia, certo che sei proprio uno stronzo, eh. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Luciani è come l'amore, come il vento, come Rocco Siffredi in fila dietro di te al supermercato. Non lo vedi, ma lo percepisci. Ragazzi, un imam di Isfahan, credo sia Iran, dice sì. Le donne senza velo fanno seccare il fiume. Durante la predica del venerdì, secondo il religioso, la scarsità di acqua del fiume Zayendeh è dovuto al fatto che molte donne si fanno ritrarre senza hijab, come cazzo si dice? Il hijab. Nei pressi del corso d'acqua e poi postano le loro immagini su Facebook. Poi naturalmente dice anche Allah punisce chi si allontana dal Corano. Beh, per ragazzi, forza, questo matti, per forza. Matti! Fabio da Roma, vai Fabio! Fabio, dai Fabio, vai. E non spacca il padre del piatto. Sei fermo lì, Fabio, dimmi, che c'è? Non stavo te, scusa. Ecco. Con chi stai parlando, Fabio? Con chi stavi parlando? No, stavo guidando, siccome sì. Stavo in viva voce, perché bisogna stare in connessione per sentire la radio, sì, certo. Quando poi mi hai chiamato, mi sono accostato un po' bruscamente, perché io non guido se sto al telefono. E chi c'è là con te? Un coglione si è accostato e mi ha suonato e mi ha detto di praticamente era così importante questa telefonata. E io gli ho detto che stavo al telefono con te, mo si è fermato, mi sa che sta ascoltando la radio. No? Fammi parlare un attimo con questo, fammi parlare un attimo con sto deficiente che si è accostato pure. Vabbè, devo scendere però. E scendi un secondo? Scendi. Sta scendendo, Fabio da Roma, si è accostato, sta scendendo. Sì, adesso... Si è messo paura e si è andato. Ma che mi volevi dire, Fabio? Che mi volevi dire? Allora, ti chiamavo perché ero un po' stanco di tutta sta gente che chiama spesso lì da te, compresi anche personaggi pubblici di vari stati, che sono scandalizzati dai gay che si baciano, che si toccano. Sì. Cioè, questi, devi sapere che al 99% questi sono tutti froci repressi. Dici, È una teoria. Non è una teoria, io ce l'ho quasi la certezza, perché conosco tanti amici che hanno questa inclinazione. Cioè poi dopo, se tu li raggiri un pochino, prendi il discorso, cominci a parlare un po' più fuori, alla fine sono tutti curiosi. Tutti. Io guarda, tutti. Ne avrò parlato, penso almeno con 50. Cioè tu dici quelli che dicono che non si dovrebbero baciare in pubblico, quelli che sono dicono tutti che sono depressi, sono tutti invidiosi, perché alla fine se tu ci parli ma un po' a lungo e poi li lasci un po' andare, alla fine io ti giuro avrò parlato con 50 di 50, certo, allora e tutti quanti alla fine dicono la stessa cosa, ma poi ma chi ci proveranno? Ma come fa il pagnoncelli della cioè radio, vogliono il cazzo, tu dici alla fine vogliono tutti i proci depressi, sono invidiosi, perché non è scusami, ma tu perché tu sei invidioso, sei ti dà fastidio se vedi un gay che si bacia con altro? No, a me no, anzi non me ne frega niente. Se sei mai chiesto perché? Ma non me ne frega niente, non lo so, non no, mi sono. No, vabbè, lo sai perché qual è? Perché a te ti piace la gnocca, quindi se quelli stanno lì a baciarsi non te ne frega niente, come a me non me ne frega niente. Nel momento in cui ti dà fastidio sta cosa, tu dici c'è una voglia repressa di pisello. Sì, dentro vanno in cerca di cazzo e ma non lo sanno manco eccolo loro qua. E... detto con linguaggio così leggero. Linguaggio colloquiale, diciamo, colloquiale. Detto con linguaggio. Prezzo, fai un po' troppo rumore là, cioè si sente il microfono, esiste un microfono alla radio, fai rumore. Sì. Allora questa, Fabio comunque... Dicevo questo, io non ce l'ho detto, siccome è una cosa che mi ha sempre dato fastidio, quando mi sono capitate persone fra amici, colleghi, gente che conosci, che avevano di inclinazione, ho sempre cercato di parlare, cioè alla fine ti giuro è uscita fuori, è sempre uscita fuori questa cosa qua. Sempre questa cosa che alla fine non che sono curiosi de, perché ci provano, ma perché fanno, io so è una teoria, vabbè, ciao amico mio, aspetta, ciao, aspetta, che c'è, ciao. Che mi devi dire, hai accostato, no, sì, giustamente. Ultima cosa al volo, ti ricordi quando un po' di tempo fa parlavi di quel tizio che aveva investito, mi pare, in nutria e l'aveva portato a fare l'ecografia, no? Sì, la nutria, sì. Allora... La nutria, un animale selvatico, sì. Insomma, e tu l'hai preso un pochino in giro, però quando fai queste cose, io ti rispetto tanto, quando fai queste cose... Se devi un pochino più essere no, è andato in una clinica veterinaria alla può fine. Essere andato, ha fatto quello che doveva fare, la legge impone che se tu investi un animale per strada lo devi soccorrere, quindi quello ha fatto altro che rispettare la legge, siccome tu giustamente in tanti casi se io ammazzo una nutria scappi, francamente me ne sbatto i coglioni, ce la lascio lì morente sul ciglio della strada, amico mio. Me ne sbatto perché non voglio salvare una nutria, me ne frego di salvare una nutria, francamente. Fai una cosa contro la legge. Ma che cosa contro la legge, ma dai. Ma vatti a informare, ti assicuro che c'è. Va bene Fabio, ciao. Allora, abbiamo chiesto a Don Paolo Farinella cosa ne pensa dell'operazione a Berlusconi. Don Paolo Farinella è il nemico per antonomasia tra i preti di Berlusconi, no? Collaboratore di Micromega, eccetera, eccetera. E ci ha detto, ma no, ma alla fine, no? Cioè, faccio gli auguri, eccetera. Quando però abbiamo fatto una domanda sulla Pascale, la Pascale che si affaccia dalla finestra lì dell'ospedale in lacrime, Farinella, ma la Pascale l'hai vista? La Pascale che si è messa a piangere in balcone? No, non l'ho vista, a me non me ne frega un cazzo se la Pascale si mette a piangere. Ma come? Si è messa a piangere. Figurati, lei si è assicurata la vita. Vabbè, ho capito, la compagna. Quando lui gli ha detto che non la sposa. Ma si è messa a piangere in balcone. Vabbè, si è messa a piangere, doveva piangere dentro, non su un balcone. Cioè tu dici esibizionismo. Lascia perdere. Esibizionismo. Ma perché balcone, tutte queste malignità? Nemmeno quella di Verona spiangeva sul balcone. Allora Parenzo, sono andato a ripescare un mitico scontro tra titani, tra Maurizio Ruggero e Lambrenedetto. Lambrenedetto, il mitologico Lambrenedetto, che non so se sia tornato dalla Russia o no, no? Sulla senti un scontro pazzesco, senti, 19 aprile. Io distinguerei molto bene sul caso dell'Islam, fermo restando che io sono favorevolissimo al velo da messa, naturalmente, che tra l'altro è anche un dono, un tocco di grazia che conferiva all'elemento femminile, perché un tempo ricordo che c'era il velo nero per le signore adulte, quello color panna per gli adolescenti, quello color bianco grazie per le bambine, che è bello anche esteticamente, oltre che simbolicamente. Allora, già uno è matto perché dice che è favorevole al velo da messa in Italia, però, senti. Ma le ragazzine di 15 anni col velo gli interessa adesso? Ma lo vedi come sei ridotto? Ma cosa gli interessa? Ma guardati come sei ridotto! Ma non ti guardi allo specchio. Gli interessa X-Fatto? Sì, ma se tu conoscessi il cattolicesimo anziché le felpette che ti metti addosso, no, probabilmente sapresti che è una roba seria. Senti Lamborghini, parla tedesca, Lambrenedetto, perché io non prendo più allora, culo senti, lei. Quando avremo in Italia Lambrenedetto, non Lamborghini, sì, Lambrenedetto, che cavolo che vuoi, io lei non lo quando prendo avremo culo, quando avremo fenomeno di Firenze, no, che farà le leggi contro la bestemmia, contro la blasfemia, per impedire la propaganda dell'omosessualità presso i minori, di rivalutazione di quelle che sono le proprie radici anche cristiane. Signor Ruggero, allora, ne possiamo riparlare. Sito, poi arriva anche Felpetta e ci allora, dirà quello che no, pensa. No, io non sono Felpetta, perché si ricordi che Madre Teresa di Calcutta andava in giro con una tonica. Io non la prendo per il culo. La gente si giudica per quello che ha nella testa, non per il vestito. No, e non mi venga a prendere per il culo col discorso Felpetta. Con che cos'era Madre Teresa? Con la tonica, con quella l'acqua tonica, la Benedetta, dai. Vogliamo chiudere in bellezza? Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda il Trump, che c'entra? Guarda il parrucchino giallo. Lo abbiamo sostituito con il verde padano. Prima c'erano i diamanti e i box verdi, ora il giallo. Guarda oltre i monti. Ascoltatori, diranno di accecarti. Loro, cioè voglio dire, io la toglierei proprio quella religione lì. Tutte le religioni va bene, quella rompe coglioni. Togliere la religione islamica, facile togliere la religione islamica, è facile. A parte che quello che è successo a Mando, vabbè, mi piace, però questi sono gli amici, sono quelli che hanno fatto la strage, sono gli amici di Renzi, Boldrini, Alfano e quelli lì. Quelli che hanno fatto la strage di Orlando sono amici di Renzi, Boldrini e Alfano. Se non avete capito bene ve lo traduco. Servi di Roma fuori. Guarda caso, gli islamici gay li attaccano via per il collo o se no li impalano. No, non sono balle queste, è la verità. Allora, questa gente che è a favore dei loro torturatori, no, a un certo punto, se se ne vogliono, peggio per loro. Nel collegio dove ero io, su 10 preti che facevano il coadiutore, 8 erano gay. E questi qua sono a favore della venuta degli islamici. Guida il popolo nella tempesta. A un certo punto interviene anche Varin. Cioè, intellettuale organico. Ce l'abbiamo con le checche, e avercela non vuol dire certo volerle farle fuori, le checche. Ce l'abbiamo con chi è volgare, con chi pensa magari anche di adottare dei bambini nonostante non abbia ben capito di che sesso è. Cioè, Varin giudica la volgarità, non si capisce da che cosa, dal gay pride. Cioè, la volgarità sta in altre cose, non nelle parole, non nei culi di fuori, nelle piume, eccetera, eccetera. Sta pure in quello che dici tu ogni tanto, caro Varin. No, ogni tanto, sempre direi. La checca è quello spudorato, quello che va in giro con il culetto fuori e magari anche il pistolino fuori, e poi magari la sera chiede di adottare dei bambini. Guardava anche a Sammy Varin, devo dire, non è che faccia piacere vedere due uomini che si baciano e poi normalmente si palpeggiano anche davanti a tutti quanti. A un certo punto interviene un'ascoltatrice. Servi di Roma fuori, senza dubbi. Il vero potere ce l'ha una bisex. Ecco. Che è la dea dell'amore, cioè lei ha il potere. Che quando mette una cosa su dove vuole, provoca le azioni. Mm. E questo è il potere suo, ultimo potere dei poteri. Ma avete capito qualcosa voi di questa qua? Il potere dei poteri. Bah, nulla. Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Domenico Reggio Calabria, vai! A proposito della pipì. Dimmi. Si parla di che uno può fare la pipì nel water, sì, sì, nel lavandino. Nel lavandino, in doccia. E questo è quello che ognuno può fare. Vabbè, questo è quello che uno può fare. Dunque, tante cose uno però, può fare, certo. Però c'è una cosa che la facciamo tutti e nessuno l'ha mai rilevato. L'ha detto un comico catanese. Cioè? Ha detto: è inutile che ustingi, costrizzi, comungi. L'ultima schizza è da mutanda. Questa è bellissima. Questo è un aforisma. Ripetile un po'. Ma tu sei di Reggio Calabria o catanese? Non ho capito. Reggio Calabria. E dillo in catanese. Dillo come lo stai dicendo. In catanese? Come lo sto dicendo? In catanese. In catanese. Come fa sta cosa? Che cosa dice esattamente? Ripetilo bene. Scandisci bene. Lo dico in italiano o in catanese? Prima in catanese, poi fai la traduzione. Vai. Va bene. In catanese dice così. È inutile tu costrizzi. È inutile tu sbatti. Tu scuoti. È inutile tu mungi. L'ultima schizza è da mutanda. Io ho capito perché lo conosco il siciliano, però vai, è inutile che lo scuoti, è inutile che lo stringi. È inutile che lo stringi, è inutile che lo mungi proprio. Sì. L'ultima goccia rimane nella mutanda. Capito Parenzo, l'ultima goccia, alla fine nonostante il fatto, ma questo è vero però ragazzi, tutti gli uomini che sono in ascolto sono tanti. Cioè è inutile che tu lo stringi, lo strizzi, eccetera, eccetera. Alla fine, tu puoi fare quello che vuoi, ma l'ultima goccia resta nella mutanda, cioè la mutanda alla fine soffre sempre, giusto Domenico? Sì, è la verità, io l'ho verificato. Anche noi l'abbiamo verificato. A domani. Sapete perché la zanzara ha tanto successo? Perché non recitate, parlate dell'umanità che è così. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, con le farmacie. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.